Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e anche oggi ritroviamo Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e ai radioascoltatori. Caro Gianluca, a tutti noi è capitato. Poi è una delle mie più grandi paure. Quando sono in macchina in una città che non conosco, ho paura di non vedere i cartelli della ZTL e di imbattermi poi in una bruttissima multa. Beh, guarda Francesco, io un po' sorrido perché non so se tu sia stato dalle parti di Mestre, dove si trova la sede della nostra associazione. Sì. E devo dire che insomma, con la costituzione di ZTL, zone pedonale, si sono create delle trappole incredibili per gli automobilisti, e come associazione abbiamo lavorato molto, ci ha dato molto lavoro, ecco, diciamo, le telecamere mestrine. Abbiamo avuto un inter lavoro con una via che è diventata, anzi nella quale sono state accese le telecamere da un giorno all'altro, cartellonistica assolutamente insufficiente, e là siamo riusciti con un grande lavoro anche con la collaborazione fortunatamente dell'assessore a far cancellare centinaia di multe, ma forse anche migliaia. E mentre diciamo che l'altra settimana abbiamo avuto una grande soddisfazione, sì. Raccontavamo, probabilmente abbiamo raccontato tramite il tuo programma, di quante multe sono state prese da molti automobilisti in alcune zone di Mestre anche di recente. In una in particolare, si chiama Via Manin, è una strada mestrina che aveva una caratteristica, diciamo, assurda e incredibile. Praticamente fino a una certa ora era ZTL, quindi zona a traffico limitato, dalle 12 in poi diventava zona pedonale. Questo è successo nel 2014. A un certo punto il commissario, c'era il commissario a quel tempo, eravamo nell'autunno del 2014, ha deciso che là si dovesse accendere una telecamera, e quindi chi passava nell'ora in cui la strada diventava pedonale, anche se aveva un permesso ZTL, pensa Francesco, prendeva la multa. È successo che un ragazzo di Padova, un rappresentante di farmaci, distribuiva i farmaci in giro per il Veneto e quindi anche a Mestre, e lui è di Conselve, e alla fine tra ottobre e novembre del 2014 ha accumulato 33 multe, quindi stiamo parlando di cifre notevoli. E 13 multe sono state onorate, quindi pagate dalla ditta per cui lavorava. Dopo un certo punto la ditta ha detto no, le altre 20 te le paghi da solo. Per fortuna questa persona ha avuto l'intuizione, diciamo, di rivolgersi a noi, e abbiamo fatto un grande lavoro, nel senso che questa persona aveva il permesso ZTL, quindi poteva teoricamente passare in tutte le zone a traffico limitato, non sapeva e non poteva sapere che quella strada alle 12 diventava strada pedonale, perché la cartellonistica era completamente insufficiente. E siamo andati chiaramente a presentare un ricorso, questo ancora nel 2015, anche qua vediamo un po' le tempistiche della giustizia, sono alquanto lunghe con i giudici di pace che sono pieni di lavoro. Infatti siamo andati a discuterla praticamente quasi 2 anni dopo, ed esattamente una settimana fa, e il giudice di pace ha accolto tutte le chiaramente le nostre indicazioni, tutto quello che abbiamo scritto sul ricorso. In particolare abbiamo sottolineato che insomma non c'erano le adeguate informazioni affinché questa persona potesse sapere che da un'ora all'altra la strada da ZTL diventava strada pedonale. Chiaramente Francesco, stiamo parlando di una cosa assurda, perché si va proprio totalmente contro il buon senso. Sì. Fare una cosa fatta apposta per affibbiare le multe agli automobilisti. Devo dire che su questo risultato, certo, c'erano sempre i dubbi, perché i dubbi restano, però insomma eravamo abbastanza convinti. Siamo riusciti anche a far annullare 5 multe a un'altra persona, in questo caso questa persona non aveva il permesso ZTL, era passato sempre in quella zona, però anche là, e forse quello è stato un successo ancora maggiore, siamo riusciti a dimostrare che la cartellonistica, quindi le informazioni, sono totalmente inadeguate. Ne approfitto per lanciare un appello all'amministrazione affinché una zona a traffico limitato venga creata per la gente, cioè per rendere più bella la passeggiata, ma non per fare cassa. A volte sembra che vengano create esclusivamente per fare cassa. Sì, anch'io ho a volte queste percezioni. È proprio per quello, insomma, quando sei in una città che non conosci, ti trovi magari a dover passare in un posto dove ci sono dei cartelli, non fai in tempo a leggerli, è buio, non sono illuminati, insomma, ed è un attimo prendersi delle multe. Grazie quindi all'operato dell'Adico, diamo queste buone notizie. È importante, insomma, rivolgersi e chiedere aiuto. www.associazionedifesaconsumatori.it. Questo è il sito che dovete cliccare, dove trovate i contatti per l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.